ma bisogna tornare indietro. Sto discendendo i boulevard a fianco del signor di Charlus, che mi ha appena preso come vago intermediario delle sue profferte di pace a Morel. Vedendo che non gli rispondevo, «Non capisco del resto perché non suoni. Non si fa più musica col pretesto che c'è la guerra, eppure si danza, si pranza fuori, le donne inventano l'ambrina per la loro pelle. Le feste riempiono quelli che saranno, forse, se i tedeschi continuano ad avanzare, gli ultimi giorni della nostra Pompei. E sarà questo a salvarla dalla frivolezza. Se la lava di qualche Vesuvio tedesco, i loro pezzi da marina non sono meno terribili d'un vulcano, farà tanto di sorprenderle davanti alla loro toilette e di eternare, interrompendoli, i loro gesti, in futuro i ragazzi si istruiranno guardando sui libri di testo illustrati Madame Molé, che stava per mettersi un ultimo strato di belletto prima di andare a pranzo da sua cognata, o Sosten de Guermantes, che finiva di disegnarsi le sopracciglia. Sarà materia per i corsi di futuri Brichot. La frivolezza di un'epoca, quando ci siamo passati sopra 10 secoli, è oggetto della più grave erudizione, soprattutto se è stata conservata intatta da un'eruzione vulcanica o di materie analoghe alla lava proiettate dai bombardamenti. Che documenti per la storia futura, quando gas asfissianti, simili a quelli emessi dal Vesuvio, e crolli, come quelli che seppellirono Pompei, conserveranno intatte tutte le improvvide case, i cui quadri e le cui statue non sono ancora stati spediti alla volta di Bayonne. Non è forse, d'altronde già da un anno, sera dopo sera, una Pompei per frammenti, questa gente che fila in cantina non per prendere qualche vecchia bottiglia di Mouton Rothschild o di Saint-Emilion, ma per nascondere con sé ciò che ha di più prezioso, come i sacerdoti di Ercolano, sorpresi dalla morte mentre portavano in salvo i loro vasi sacri. È sempre l'attaccamento all'oggetto a provocare la morte del possessore. No, Parigi non è stata fondata da Ercole come Ercolano, ma quante somiglianze saltano all'occhio. E questa lucidità che ci è concessa non è soltanto della nostra epoca, tutte l'hanno avuta. Come io sto pensando che potremmo subire la sorte della città del Vesuvio. Queste si sentivano minacciate dalla sorte delle città maledette della Bibbia. Sui muri di una casa di Pompei è stata trovata questa iscrizione rivelatrice: Sodoma, Gomorra. Non so se furono il nome di Sodoma e le idee che con esso si destarono con lui, oppure l'idea del bombardamento, a far sì che il signor di Charlus alzasse per un attimo gli occhi al cielo. Comunque li riportò subito sulla terra. «Ammiro tutti gli eroi di questa guerra», riprese. «Ecco, mio caro, i soldati inglesi, per esempio, che ho considerato con qualche leggerezza, all'inizio della guerra, come semplici giocatori di football tanto presuntuosi da volersi misurare con dei professionisti, e che professionisti! Ebbene, anche dal punto di vista estetico, sono semplicemente degli atleti della Grecia. Della Grecia, mio caro, vi rendete conto? Sono i giovani di Platone, o meglio ancora, degli spartani. Certi amici miei, che sono andati a Rouen, dove c'è il loro campo, hanno visto delle meraviglie, delle pure meraviglie, da non averne idea. Non è più Rouen. È un'altra città. E evidentemente c'è anche la vecchia Rouen con i santi e maciati della cattedrale. Bella anche quella, ben inteso, ma è un'altra cosa. E i poilù. Non so dirvi quanto sapore ci trovo nei nostri ragazzi, nei nostri piccoli parigini. Questo che sta passando, per esempio, con quell'aria smaliziata, quella faccetta sveglia e spiritosa. Mi capita spesso di fermarli, di fare 4 chiacchiere con loro. Che finezza, che buon senso. E i ragazzi di provincia, così divertenti, così carini, con la loro R e il loro dialetto. Io ho sempre vissuto molto in campagna, dormito nelle fattorie, conosco il loro modo di parlare. Ma la nostra ammirazione per i francesi non deve farci disprezzare i nostri nemici. Sarebbe come diminuire noi stessi. E voi non avete idea di che soldato sia il soldato tedesco, voi che non l'avete visto come l'ho visto io sfilare a passo di parata il passo dell'oca Unter den Linden. E tornando all'ideale di virilità che mi aveva abbozzato a Balbec e che con l'andar del tempo aveva preso in lui, una forma più filosofica, col ricorso peraltro a ragionamenti assurdi, che a tratti, magari quando aveva appena detto qualcosa di superiore, lasciavano trapelare la trama troppo esile dell'uomo puramente mondano, anche se intelligente. «Il fatto è», mi disse, «che quella meraviglia d'uomo, che è il soldato tedesco, è un essere forte, sano, che pensa solo alla grandezza del suo paese, Deutschland über alles, il che è tutt'altro che stupido, mentre noi, quando loro si preparavano virilmente, siamo sprofondati nel dilettantismo». Questa parola significava probabilmente per il signor di Charlieu qualcosa di analogo alla letteratura, perché subito, certo ricordando che io amavo le lettere e avevo avuto per un momento l'intenzione di dedicarmi ad esse, mi batté sulla spalla, approfittando del gesto per premere sino a farmi non meno male che un tempo, quando facevo il servizio militare, il rinculo del 76 contro la scapola, e aggiunse, come per addolcire il rimprovero, «Sì, siamo sprofondati nel dilettantismo, tutti quanti. Anche voi, ricordatevene, potete recitare come me il vostro mea culpa. Siamo stati troppo dilettanti». Per stupore del rimprovero, mancanza di prontezza, deferenza verso il mio interlocutore e commozione per la sua amichevole bontà, risposi come se, ottemperando al suo invito, dovessi anch'io battermi il petto, cosa perfettamente stupida dal momento che non avevo ombra di dilettantismo da rimproverarmi. «Bene», mi disse, «vi lascio». Il gruppo che l'aveva scortato da lontano aveva finito con l'abbandonarci. «Vado a dormire come un vecchio, vecchissimo signore, tanto più che a quanto pare la guerra ha cambiato tutte le nostre abitudini». Uno degli aforismi idioti a cui Norpois è tanto affezionato. Sapevo del resto che tornando a casa il signor di Charlieu non smetteva per questo d'essere in mezzo ai soldati, giacché aveva trasformato il suo palazzo in ospedale militare, obbedendo peraltro, credo, ai bisogni della sua immaginazione assai meno che a quelli del suo buon cuore. La notte era trasparente e senza un soffio d'aria. Pensavo che la Senna, scorrendo fra i suoi ponti circolari, fatti della loro piattaforma e del suo riflesso, doveva assomigliare al Bosforo e, simbolo dell'invasione prevista dal disfattismo del signor di Charlieu o della cooperazione dei nostri fratelli musulmani con l'esercito francese, la luna, stretta e ricurva come uno zecchino, sembrava mettere il cielo di Parigi sotto il segno orientale della mezzaluna. Per un istante ancora, salutandomi, il barone mi strinse la mano fin quasi a stritolarmela, che è un uso tedesco tipico di quelli come lui, continuando per un po', avrebbe detto Cottard, a malassarmela come se volesse restituire alle mie articolazioni una scioltezza che non avevano perduta. In certi ciechi il tatto supplisce in qualche misura alla vista. Non so bene di che senso facesse le veci in questo caso. Forse Charlieu credeva di stringermi la mano e basta, come certamente credette di limitarsi a vedere un senegalese che passava nell'ombra e che non si degnò d'accorgersi della sua ammirazione. Ma in entrambi i casi il barone si ingannava. Peccava per eccesso di contatto e di sguardi. «Non c'è forse dentro tutto l'Oriente di Descamps, di Fromentin, di Ingres, di Delacroix?» mi chiese, ancora immobilizzato dal passaggio del senegalese. «Sapete, io mi interesso alle cose e agli esseri soltanto da pittore, da filosofo. Del resto, sono troppo vecchio. Ma che peccato, per completare il quadro, che uno di noi due non sia un odalisca». Non fu l'Oriente di Descamps e nemmeno quello di Delacroix a occupare la mia immaginazione quando il barone m'ebbe lasciato, ma il vecchio Oriente di quelle mille e una notte che avevo tanto amate. E perdendomi a poco in quell'intrico di strade, pensavo al califfo Harun al-Rashid in cerca d'avventure nei quartieri sperduti di Baghdad. Il caldo dell'aria e della camminata m'aveva messo sete, ma i bar erano chiusi da tempo e a causa della penuria di benzina I rari tassi che incontravo, con dei levantini o dei negri al volante, non si prendevano nemmeno la briga di rispondere ai miei cenni. Il solo posto dove avrei potuto farmi dare qualcosa da bere e riprendere le forze per tornare a casa era un albergo. Ma nella strada, abbastanza lontana dal centro dove ero finito, da quando i Gotha avevano cominciato a bombardare Parigi, gli alberghi erano tutti chiusi. E lo stesso per quasi tutti i negozi, i cui proprietari, rimasti senza commessi o in preda al panico, erano scappati in campagna, lasciando sulla porta un avviso di prammatica, scritto a mano, che annunciava la riapertura per un periodo lontano e d'altronde problematico. Gli altri esercizi, che ancora erano riusciti a sopravvivere, annunciavano con lo stesso mezzo d'essere aperti solo 2 giorni alla settimana. Si sentiva che la miseria, l'abbandono, la paura abitavano l'intero quartiere. Fui dunque tanto più sorpreso di vedere che fra 2 di quelle case abbandonate ce n'era una in cui la vita mostrava d'aver sconfitto il terrore e il fallimento, mantenendovi attività e ricchezza. Dietro le imposte chiuse di ciascuna finestra, la luce, attenuata in ottemperanza alle disposizioni di polizia, rivelava tuttavia una completa incuranza dell'economia, e la porta si apriva ogni momento per lasciare entrare o uscire qualche nuovo visitatore. L'albergo suscitava senza dubbio, a causa del denaro che i suoi proprietari certamente guadagnavano, l'invidia di tutti i commercianti vicini, e suscitò anche la mia curiosità, quando ne vidi uscire rapidamente a una 15 di metri da me, cioè troppo lontano perché nell'oscurità profonda potesse riconoscerlo, un ufficiale. Qualcosa peraltro mi colpì, che non era né il suo viso, che non vedevo, né la sua uniforme, dissimulata sotto un'ampia guarnacca, ma la straordinaria sproporzione fra il numero dei punti diversi per cui passò il suo corpo e quello minimo dei secondi durante i quali quell'uscita, che sembrava un tentativo di sortita da un assedio, si perfezionò. Pensai dunque, pur non riconoscendolo formalmente, non dirò proprio al portamento o alla sveltezza o all'andatura o alla velocità di Saint-Louis, ma a quella specie di ubiquità che gli era così caratteristica. Il militare, capace di occupare in così poco tempo tante diverse posizioni nello spazio, era scomparso, senza accorgersi di me, in una traversa, e io ero lì a chiedermi se dovessi o no entrare in quell'albergo, il cui aspetto modesto mi fece fortemente dubitare che chi ne era uscito fosse davvero Saint-Louis. Involontariamente mi ricordai che Saint-Louis era stato ingiustamente coinvolto in un affare di spionaggio perché si era trovato il suo nome in certe lettere prese a un ufficiale tedesco. Le autorità militari lo avevano d'altronde completamente scagionato, ma mio malgrado associai questo ricordo a ciò che avevo visto. Quell'albergo fungeva da luogo di incontro di spie? L'ufficiale era appena scomparso quando vidi entrare soldati semplici di varie armi, il che rafforzò ulteriormente la mia supposizione. Avevo d'altra parte una gran sete. Era probabile che lì potessi trovare da bere, e ne approfittai per cercare di appagare, a dispetto dell'inquietudine che vi si mischiava, la mia curiosità.